La giustizia sociale. Tutti i consociati nello Stato islamocratico hanno diritto di avere condizioni di vita dignitose, sicché le persone incapaci di prendere parte alla gara economica ricevano dalla pubblica assistenza i mezzi per vivere decorosamente. A questa istituzione può rivolgersi anche chi, avendo capacità imprenditoriali ma difetto di mezzi, ha bisogno di finanziamento per intraprendere un'attività economica produttiva. A questo scopo, la legge prevede l'attuazione di un sistema fiscale con un tesoro alimentato dall'imposta coranica, che è il terzo pilastro dell'Islam. Al pagamento dell'imposta coranica sono tenuti i proprietari di alcuni cespiti patrimoniali, oro, argento, merci, denaro, quando il valore di ciascuno di essi sia superiore a quello di 96 grammi d'oro e su essi sia trascorso un anno egiriano di 364 giorni da quando il valore del cespite ha uguagliato o superato il minimo imponibile. Vi è anche un prelievo sulla produzione agricola o del 5 o del 10% a seconda della natura del terreno, del 20% di certi prodotti minerari. Inoltre c'è anche un'imposta sul bestiame relativamente a cammelli, bovini, pecore e capre in numero superiore a un minimo fissato dalla legge. I proventi dell'imposta coranica devono essere destinati alle categorie indicate nel sublime Corano nell'aia istitutiva di essa. Una forte tutela è accordata al lavoro nell'ordinamento islamico, sicché nessuno possa essere costretto ad accettare per timore della disoccupazione condizioni di lavoro pregiudizievoli alla sua dignità umana, alla sua salute e alla sua sicurezza. A tutti viene garantito il diritto alla salute mediante la gratuità delle spese mediche e ospedaliere. Nello Stato islamocratico l'organizzazione della società offre all'individuo una sfera di azione all'interno della quale c'è un ampio spazio in cui egli è libero di guadagnarsi la vita, mantenere la sua libertà di coscienza e di essere capace di sviluppare le sue doti intellettuali in base alle sue capacità e in funzione di quel progetto di vita che egli si sia liberamente programmato. L'ordinamento islamico è fondato sul divino regolamento dell'attività umana, mettendo in pratica la quale si realizza la via dell'equilibrio, nel rispetto della quale il singolo accetta, nell'interesse della comunità, certe restrizioni, accettate le quali egli è lasciato libero di regolare i suoi affari come meglio crede. L'ordinamento islamico realizza le condizioni che garantiscono a un tempo il bene del singolo e quello della comunità, armonizzando il pubblico con il privato e stabilendo l'equilibrio tra gli interessi dell'individuo e quelli della società.